Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti da Anna Marino a Voci di piccola impresa. Idee anticrisi. Prendere la valigia con i prodotti più innovativi e made in Italy e andare all'estero. Non all'avventura, ma con la precisa strategia di internazionalizzare. Parolina magica per le imprese italiane, dalle grandi alle medie alle start-up che vogliono sopravvivere al crollo della domanda interna del nostro paese e alla crisi che taglia il fiato. Nel 2012 il 52% del fatturato dei distretti è arrivato dall'estero. Più positive le aspettative per il 2013, secondo Unioncamere. Quasi il 38% degli ordinativi parlerà un'altra lingua. In prima linea PMI e start-up, secondo il presidente dell'Unioncamere Ferruccio Dardanello. Le start-up dovranno sicuramente essere un po' la punta di innovazione, di novità all'interno della nostra storica proposta. Sono 150 anni che noi ogni giorno, ogni anno a casa nostra, in questo paese che non avevamo materie prime, abbiamo saputo trasformare le cose che avevamo o inventare le cose che ancora non c'erano, e credo che dovremo continuare in questa direzione per far sì che questo brand, che è il terzo brand conosciuto al mondo dopo Coca-Cola e Visa, il Made in Italy, possa continuare a essere lo strumento sul quale basare, io credo, le strategie future non solo della nostra economia ma anche della nostra società. Ed ecco un esempio che si tocca con mano. Total Tool, società di visioning e design strategy, fondata nel 1999, porta il Made in Italy del design nel mondo, con sedi oggi a Milano, Tokyo e Buenos Aires. Riceve 2 segnalazioni al Compasso d'Oro e nel 2007 entra nella ICSID Hall of Fame. Tra i progetti recenti ci sono le nuove terme di Saint Vincent, il nuovo autogrill sostenibile e innovativo di Villoresi Est sulla Milano Laghi, la direzione artistica di una collezione di alto artigianato per il governo di Taiwan. Tutto parte da un curriculum di tutto rispetto del fondatore Giulio Ceppi, architetto e design, che ha tenuto workshop e conferenze in oltre 25 paesi e scritto vari saggi sul design e la cultura del progetto. Total Tool alla fine è un gruppo di creativi estremamente interdisciplinare, oggi con 6 o 7 supporti a livello mondiale tra l'India, gli Stati Uniti, la Cina, ovviamente anche nei mercati dove stanno accadendo molte cose, che permette, ecco, di gestire dei processi di innovazione, dialogando con le imprese, ma anche portando avanti quello che è un po' la cultura del design. Ecco, tutte queste parole significano che voi praticamente siete a caccia di idee nuove per tutto il mondo e fondamentalmente la parola è internazionalizzazione ed è la soluzione anticrisi che voi vi siete proposti. Chi è che vi ha aiutato in questo viaggio anticrisi? Bah, guardi, di sicuro, e in questo siamo fortunati, il fatto di essere italiani e di avere una tradizione, diciamo, rinascimentale è già un aiuto, perché nel mio caso, essendo architetto ed essendo italiano, tanti si aspettano già che tu possa fare molto solo per questo. Alla fine io credo che la cosa molto importante è quella, ad esempio, di lavorare come stiamo facendo su dei processi che, scherzando, abbiamo chiamato venture design, cioè in cui mettiamo insieme delle imprese, ad esempio italiane, che sono capaci di vendere prodotti e servizi ma fanno fatica a farlo da solo. Quindi creare, chiamiamole delle mine cordate, creare dei gruppi in cui l'idea, la capacità imprenditoriale guida e non il fatto necessariamente di avere il capitale, quindi non il venture capital, diciamo, ma il venture design, cioè noi italiani siamo famosi per la capacità di cambiare le cose, di essere innovativi, però non siamo tanto bravi a fare squadra. Allora la creatività e il nostro ruolo in quanto impresa creativa è quello di aiutare soggetti, a volte anche piccoli, familiari, locali, a mettersi insieme e andare fuori dall'Italia, perché non è una cosa che le aziende che siano strutturate in maniera articolata sono spesso capaci di fare. Quali progetti avete fatto da poco? Guardi, oggi si è inaugurato qua in Italia quello che sarà l'autogrill più grande sul tessuto nazionale, e penso, siccome è stato progettato con una divisione che si chiama A Future, che abbia l'ambizione di essere un modello di riferimento a scala perlomeno europea. Quindi questo locale che ha dei numeri impressionanti, perché si aspettano 2 milioni di visitatori, insomma 6.000 persone al giorno, 2 milioni in un anno, 6.000 persone al giorno, è stato però progettato, e questa è la cosa che mi rende orgoglioso, al di là dei numeri, con i massimi criteri di sostenibilità. L'innovazione è la vera idea anticrisi, voi producete innovazione e producete innovazione anche per altre imprese. Ecco, qual è l'idea dell'autostrada sostenibile a produzione di energia rinnovabile chilometro zero road che invece vi lancia verso il futuro? Ecco, questo è proprio un modello di quello che cercavo di spiegare prima, cioè come mettendo insieme in questo caso 10 aziende che tutte possono contribuire in maniera specifica e innovativa alla costruzione di un manifatto complesso come una strada, che non è un oggetto così banale come sembra magari da semplice viaggiatore o da guidatore dell'automobile, ma mettendo dei contenuti innovativi in termini di tecnologia, quindi usando ad esempio il rinnovabile di cui si parla tantissimo, per sfruttare la traccia che inevitabilmente una strada produce nel paesaggio, nel territorio, per produrre energia rinnovabile e quindi avere una strada che in qualche modo è in grado, attraverso il solare, attraverso l'eolico, attraverso anche il geotermico, di produrre l'energia che in parte consuma. Quindi l'internazionalizzazione sì, ma soprattutto mantenere le radici in Italia, per cui sì, si va all'estero, ma comunque l'Italia rimane il luogo per voi delle idee, del design. Questo di sicuro, guarda, io uso sempre una metafora magari un po' brutale, ma il mio professore di storia dell'arte mi faceva sempre l'esempio di Van Gogh e di Gauguin, dove Van Gogh ha dipinto 1000 quadri in 3 anni, si è tagliato un orecchio, è finito in un manicomio, diciamo, ha sofferto e forse in questo momento in Italia si soffre, ma ha prodotto un'arte strepitosa. Gauguin, che era il suo grande amico, è andato alle isole Figi, ha fatto una bellissima vita, però diciamo un suo quadro per me non vale neanche una pennellata di Van Gogh. Allora, restare qua a volte è un esercizio impegnativo, ma io sono convinto che è nella fatica e a volte nei vincoli, nei limiti, che si fa uno scarto per trovare una soluzione geniale. Un altro esempio pieno di dritte da imitare, showroom Guffanti, con sede principale in Piazza San Babila a Milano e una succursale romana nel cuore della capitale e con più di un terzo del fatturato all'estero. Alessandra Chiara Guffanti, 36enne milanese, da anni cura personalmente la distribuzione in esclusiva per la Russia e per i paesi di area russofona dell'ex blocco sovietico come Bielorussia, Ucraina, Kazakistan, Azerbaigian, ma è sbarcata anche in Asia con alcune collezioni fashion internazionali rivolte alla donna, a bimbi e neonato e alla sposa. Showroom Guffanti nasce nel 1989, fondata da mio padre, è un'azienda che si occupa di distribuire brand fashion italiani e internazionali nel settore abbigliamento donna, bambino e sposa. Sono brand che cerchiamo in tutto il mondo proprio perché riteniamo innovativi per i mercati che trattiamo. Da sempre la visione di mio padre è stata quella di portarli su un mercato italiano che aveva bisogno di prodotti più freschi, per cui lavoriamo con boutique multimarca di alto livello su tutta Italia e department store. Lavoro in azienda dai tempi dell'università e ho sin da subito potuto sfruttare l'opportunità di aver studiato 4 lingue che mi hanno permesso di entrare subito in sintonia con i brand che rappresentavo, non solo per il prodotto ma anche per una comunicazione culturale. Quindi sei entrata tu, seconda generazione, giovane, multilingue e ovviamente hai portato che cosa come innovazione, idea anticrisi? L'idea anticrisi è nata in un momento in cui l'azienda andava molto bene e forse di crisi non si parlava ancora, e ho aperto fine 2003 la nostra sede a Roma. Allora ho vissuto 3 anni a Roma, girando intensamente il centro-sud e tutti i clienti del sud Italia. In quell'occasione ho visto un modo di comprare la moda, viverla, interpretarla da parte dei titolari di boutique che venivano da noi a acquistare, molto bello, interessante, che mi ha dato una visione anche diversa di come interpretare il mercato. È stato lì che ho percepito però il limite. Nonostante il lavoro funzionasse molto bene in quel momento, mi rendevo conto che il mercato italiano era interessante, però sicuramente la nostra azienda, con una sede in centro a Milano e con l'opportunità di contattare brand nel settore fashion da tutto il mondo, poteva esporsi anche verso altri mercati, e probabilmente l'idea di un mercato italiano che funzionava a gonfie vele era semplicemente un primo orizzonte, ne esisteva uno molto più complesso e che andava affrontato col tempo. tempo. Quindi orizzonte più grande, quindi hai iniziato a viaggiare non solo in Italia, dove? Dal 2009 ho iniziato a affrontare il mercato ex Unione Sovietica. Avevamo zero clienti, oggi rappresenta più di un terzo del nostro fatturato. Come siamo riusciti a affrontarlo? Beh, in maniera molto empirica, come tutte le cose che faccio. All'inizio ho preso delle collaboratrici di importanti uffici, le ho chiesto di lavorare assieme a me, ma mi sono resa conto che nonostante fossero delle ragazze russe con ottima esperienza, non avevano conoscenza del loro territorio, perché avevano sempre ricevuto i clienti direttamente in Italia. Per cui il vero metodo per affrontare questo mercato da zero con marchi nuovi era andare direttamente in loco, incontrare i clienti, capire quali erano i prodotti più giusti per loro e per cui fare un lavoro diretto come l'avevo svolto nel sud Italia a suo tempo. Internazionalizzazione è la parola d'ordine. Questo lavoro di aprirsi al mondo va fatto di persona, in un mondo anche in cui c'è il virtuale, il contatto personale, la relazione commerciale faccia a faccia è importante. Assolutamente, valigia in mano, assieme a una persona che oggi è il mio direttore per l'area ex Unione Sovietica, siamo partiti e è stato proprio un viaggio esperienziale. Nel tempo abbiamo maturato tutti i comportamenti, imparato quali prodotti cercare e proporre a questi clienti che fossero proprio più adatti. Mentre la mia nuova sfida è un territorio estremamente più complesso, Asia, inteso come Cina, Corea, Giappone. Definirei tre animali con caratteristiche profondamente diverse, logiche commerciali, per le quali naturalmente mi sono coordinata con collaboratrici interne cinesi e giapponesi. Cosa ti ha aiutato e che cosa ti ha ostacolato? Soprattutto che cosa ti ha aiutato? Sicuramente la leva motivazionale nasce dal dialogo anche contrastato con mio padre, mentre le informazioni, un po' la visione d'insieme, nasce dalla mia partecipazione alla vita associativa. Sono membro del direttivo del gruppo Giovani Nasso Lombarda o anche del gruppo Giovani Sistema Moda Italia e entrambe le partecipazioni, io lo dico sempre a quelli che sono i soci o anche altre persone che si avvicinano, sono momenti in cui da una parte togliamo forse del tempo a altre situazioni personali o lavorative, ma se noi ne siamo capaci possono trasformarsi in un insieme di energie positive. Un'altra cosa che mi ha aiutato è stato investire sin dall'inizio in una squadra di collaboratori stranieri dedicati ai vari mercati. E ora via all'estero con le vostre imprese, queste le storie di oggi, ma se volete ascoltare le precedenti o scriverci Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24 con 24 in numero, su Facebook alla pagina Voci di Piccole Imprese, al blog su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino.